Questa è la voce del progetto, una voce libera e laica, del tutto fuori dal coro. Coming out a scuola. Per la scuola ci passano tutti. Parto da un'osservazione banale. Per un ragazzo gay la scuola superiore è insieme l'inferno e il paradiso. Ci si entra a 14 anni e se ne esce a 19, ormai giovani adulti. In pratica quasi tutto l'apprendistato sessuale e soprattutto affettivo è legato all'ambiente della scuola. Se per un ragazzo etero i comportamenti possono essere relativamente liberi, un ragazzo gay sperimenta a scuola lo stesso senso di costrizione e di limitazione che sperimenterà per il resto della vita. Si tratta purtroppo letteralmente di una scuola di vita. Nonostante tutte le limitazioni che un ragazzo gay sente sulla sua pelle, la curiosità sessuale resta sempre vigile e prevale in genere sul senso di disagio. Tra i ragazzi più grandi si sviluppano talvolta rapporti affettivi molto forti, amicizie, amicizie amorose e anche vere storie d'amore. Storie d'amore etero ne vedete molte, storie d'amore gay non ne vedete mai e anzi non vedete mai nemmeno ragazzi gay. Tutto a scuola è rigidamente etero. Nessuno, né insegnante né studente, si concede aperture gay perché il gioco è troppo pericoloso. Talvolta, sotto l'apparenza dell'interessamento pedagogico e psicologico, alcuni ragazzi possono subire l'omofobia latente nell'istituzione. Riporto qui qualche pagina del diario scolastico del 1976 di Dario, un ragazzo che allora aveva 16 anni. Lunedì. Potevo nasce brutto. Ah mamma, perché mi ha fatto così bello? Se ero brutto stavo meglio, io a queste ne sopporto proprio, mi si appiccicano addosso, mi fanno una caspita di moine. Cinzia mi si siede sempre sulle gambe e fa finta di niente. Paola mi si sbaciucchia pure, ma chi te vole? Mandatevene da Cristiano, che a lui gli pare vero. Così fate contento lui e mi lasciate tranquillo a me, ma tanto quello è brutto, a voi mi piace. Vabbè. Ma quanta la fa lunga questa? Sta parlando della professoressa di filosofia. E poi butta sempre in politica e gli dice pure che fa lezione. Ma che te guardi? Oh, sto a scrivere. Ma te che te ne frega di che sto a scrivere? Sto a prendere appunti, sono cavoli miei, vedi? Faccio pure finta di far sì sì con la testa, sei contenta? A me questa mi pare proprio maga magò, ma chi l'ha sbarcata? Mercoledì. Saltano 2 ore di educazione fisica. Che rabbia, io a quello mo magno. Sei vecchio, passi. C'è la pancetta, passi, non c'è manco un capello in testa, e vabbè, non è colpa tua, ma sei uno stronzo. Io le 2 ore del mercoledì le aspetto tutta la settimana perché mi devo andare a vedere Emilio che si spoglia, e tu che fai? Te ne stai a casa e te dai malato. E a noi ci mandano quella befana per altre 2 ore di filosofia. Ma cazzarola! Adesso ti aspetta un'altra settimana, la inaccia tua. Giovedì. Oggi mi chiama Maga Magò. Ma che stai scrivendo? Portami il diario. Io a te il diario, ma col cavolo che te lo porto. Però l'ho dovuta supplicare. Oh, mica io potevo da. Vabbè, questa è una. Poi Paola, ciccicciccio, mi ha pure detto all'orecchio che secondo lei Fabrizio è gay. Fabrizio, che è brutto come la fame. Avesse detto Emilio, beh, oh, ma Fabrizio lo lascio a voi, no? Venerdì. Oggi ci siamo parlati, ma ha cercato lui. Vabbè, c'eravamo solo noi perché c'era l'assemblea. Eravamo 4 gatti perché quando c'è l'assemblea a scuola non ci viene nessuno. Però mi dice, lo vuoi in caffè? Invece sono fiondato. Siamo stati a parlare dalle 9 a mezzogiorno. Emilia è affascinante, un poeta, dice cose bellissime, un po' malinconiche però. Dice che non gli hanno mai voluto bene. Ma com'è possibile? La maggior parte abbiamo parlato di scuola. Vabbè, è la prima volta che parliamo. Lui fa atletica, c'ha quasi 17 anni e sembra che ce n'abbia 20. Si fa la barba tutti i giorni e c'ha la pelle del viso bellissima. È proprio bello. E poi non si crede chissà chi, non c'ha la boria. Quando stava lì io me lo sarei... Vabbè, dico per di, però mica tanto. Poi è passata Maga Magò e mi ha fatto venire i nervi. Che state facendo voi due lì? Andate all'assemblea, su, date, forza! Si è messa davanti alla porta della classe e aspettate che uscissimo. E quando siamo usciti ci ha guardato con un ghignetto che non mi è piaciuto proprio. E Emilio gli ho detto, questa mi sa che ha pensato chissà che... Lui mi ha detto una cosa bellissima e lasciaglielo pensare. Ah, bella, tu non hai capito ancora chi siamo noi. All'assemblea una rottura incredibile. C'era uno del quinto che faceva tutto lui. Noi dei quinti di qua, noi dei quinti di là. Oh, che se la bevana te fanno scrillo, tutto la fai sotto. Io e Emilio ci siamo messi da parte e siamo rimasti a chiacchierare. E a un certo punto mi sono appoggiato alle spalle di Emilio, una sensazione da sogno. Poi è passato un ragazzo e mi ha fatto occhiacci. Io mi sono girato e la befana c'avevo proprio dietro. Ha detto so, eh? Io mi sono guardata e gli ho detto, ah professore, ma qua stanno vomitando tutti, ma perché lui ci sono noi? Ma io pure agli altri, no? E lì è scoppiato il fine mondo. Voi siete dei maleducati. No, semmai so io il maleducato, lui non c'entra proprio. E no, c'entra, c'entra, ma dove vi credete di essere? Lì si è girato pure Emilio. Andiamo, se ne va. Io ero rosso di rabbia sotto gli occhi della Befana. Emilio mi prende la mano e ci allontaniamo mano nella mano. Oh, è stato uno dei momenti più belli della vita mia. Poi mi è venuta pure la paura perché quella si vendica. Ma Emilio ha detto: oh, ma mica ci possiamo far condizionare da quella. Io lo amo, Emilio. Prima era solo una questione di sesso, ma adesso lo amo proprio, Emilio! Questa è la voce del progetto, una voce libera e laica, del tutto fuori dal coro.